Mente, a cura di Giacomo Sapienza. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di CRM Happy Radio, la radio che si sente ma che anche si vede in streaming sul sito ufficiale della nostra emittente crmhappyradio.it. Ospite del giorno, lo diciamo subito, un ospite eccezionale perché è il direttore di CRM Happy Radio, il giornalista Mario Lombardo. Lui è abituato a fare tantissime interviste, ad intervistare tantissima gente, ha intervistato praticamente tutti a Cefalù. Di essere intervistato. Ma l'ho voluta in studio non perché sia io che voglio intervistarlo, ma perché sono stati in tantissimi a interessarsi di lei in questo inverno e nelle ultime settimane. Soprattutto si è interessato Rai Storia, se non sbaglio, Rai 3, si sono interessati anche alcuni scrittori importanti che scrivono per case editrice a livello internazionale, tipo la Spelling e Kufler. Lei sul tavolo, per chi ci vede in streaming può senz'altro vederlo, ha due libri molto importanti, ma di questo parleremo dopo. Veniamo da un fine settimana molto ricco di avvenimenti, sia locale sia nazionale. Li affronteremo tutti e due. Affronteremo anche gli avvenimenti sportivi, perché non tutti sanno che il professor Lombardo, giornalista, è ormai un punto di riferimento per lo sport cefaludese, specialmente per il volley, perché per il basket e calcio lo conosciamo da tempo perché lo leggiamo sui maggiori quotidiani dell'isola, ma anche si occupa da qualche anno di pallavolo, diventando un punto di riferimento per i siti locali e per tanti giornalisti, me compreso. Allora, professore, da cosa iniziamo? Lei è il giornalista per eccellenza, potremmo dire si faccia la prima domanda e si dia una risposta. E non so se vuoi iniziare con lo sport, ovvero con il discorso che facevi poc'anzi, che riguarda anche l'attività svolta in passato. In realtà io cerco di non arrugginirmi, ormai raggiunta la maggiore età, l'anzianità, è noto che uno cerca in qualche modo di non fermarsi, perché se uno si ferma finisce per non per arrugginirsi completamente, quindi non. E io invece trovo, per esempio, per lo sport molto salutare andare al campo, anche se il campo, per esempio il campo di calcio, tu lo frequenti un po' di meno. Sì, io il calcio non lo seguo. Ma lì quando piove è un disastro, perché sono state tolte le plastiche che coprivano il campo, parte del campo, e quindi non è stato rimesso niente. Quando piove bisogna stare con l'ombrello a assorbirsi il freddo, il vento e qualche cosa. Però ecco, tu ti distrai, è un momento di distrazione, di trovare qualcosa per seguire, anche uno sport che poi alla fine ti piace, e nello stesso tempo provi a scrivere qualcosa per i giornali che te lo chiedono. Questo è un po' il discorso che riguarda lo sport. Per il volley è diverso, c'è il palazzetto, il Palatricoli, che effettivamente anche riscaldato tante soddisfazioni, anche se poco sfruttato, a mio avviso deve essere maggiormente sfruttato, perché è una struttura che molti ci invidiano, che è una struttura che può essere un punto di riferimento non soltanto per Cefalù ma per le Madonie, per la Sicilia, e quindi c'è bisogno di intensificare lo sport. Ci vanno 4.000 persone circa, quindi è capiente, e quindi oggi, per esempio, in questo periodo, tu lo sai perché ci vai, ti dilette anche di fotografie oltre che di giornalismo, e quindi frequenti anche il Palatricoli e ti rendi conto che, per esempio, c'è il Barcellona, che è squadra di Lega 2, che viene a giocare, avendo il suo campo squalificato, viene a giocare al Palatricoli, ed è uno spettacolo nello spettacolo, perché tu vedi 2-3 mila persone sugli spalti che vengono per lo più da Barcellona, ma anche i cefaludesi vanno al campo per seguire queste partite, e ovviamente sono i più affezionati, i tifosi, ma non soltanto, per vedere uno sport di altissimo livello. E proprio domenica ci sarà un'altra partita lì al Palatricoli, alla quale sì, cercheremo di... Sì, diciamo, possiamo senz'altro affermare che c'è proprio lo sport, piace, lo sport è seguitissimo. Abbiamo visto anche domenica al Palasporto di Vialdo Moro il pienone per la partita basket, soprattutto del basket. Attira moltissimo. Dopo l'era Zannella, indubbiamente, forse più del calcio, vedete che ci sono più spettatori del calcio, anche perché oltretutto è un ambiente chiuso e ha una portata di schioppo, perché si arriva subito accanto al vecchio ospedale Giglio, e quindi molta gente anche a piedi ci arriva subito e vi partecipa, e forse è diventato insufficiente. Io ho notato che c'è molta gente che è davanti alla porta perché non è capiente tanto da ospitare tutti i tifosi che vogliono assistere alla partita di basket. Però diciamo che lo sport in atto sta funzionando. La Cefaledimo si trova, il Cefalù, io ancora ho l'idea, sì, Cefalù si trova al terzo posto in classifica e può aspirare a qualcosa di più, perché quest'anno c'è una bella squadra. Poi la pallavolo, che purtroppo, come lei ha affermato poco fa, non è seguita, soltanto pochissimi amici vanno a seguire le partite, eppure è seconda in classifica in un campionato nazionale alle spalle di Agrigento, davanti a Spezzano e Cutro, due squadre calabresi, e la pallavolo maschile ha vinto il campionato di prima divisione, ma gioca nella palestra della scuola media. Ci sono tante altre attività giovanili che vanno veramente forte, eppure... Eppure diciamo lo sport cefaludese, questo ha meravigliato anche me, perché una squadra di B2 è la squadra maggiore della provincia, neanche Palermo c'è una squadra in B2 di volley, che non attira i tifosi. Vuoi magari perché a distanza ci devo andare in macchina per andare a Ogliascillo, non lo so, c'è qualcosa che non... Che non funziona in questo discorso. Vuoi magari per la mancanza di pubblicità, che andrebbe io ritengo sempre, l'ho detto anche ai dirigenti del volley, fate delle locandine quando ci sono delle partite in casa, in modo da che la gente sappia che ci sono queste partite e che la squadra milita è seconda in classifica, pur essendo in sette elementi. Io l'ho chiamato il sette bello, però pur essendo sette elementi, sono elementi che giocano, che lottano, che tengono alla maglia, sono persone di una grande... che io stimo in particolare per questo loro attaccamento alla società, alla maglia. Sì, anche io ho voluto chiamarle, parafrasando il titolo di un film western, nelle Magnifiche Sette. Ma direttore, dalla regia ci chiedono la linea, ringraziamo Sante Genovese che ricordo conduce il nuovo programma sportivo di CRM Happy Radio. Linea alla regia. Ritorniamo in studio con noi il direttore di CRM Happy Radio, ma anche un noto giornalista cefaludese che scrive per più testate, ma anche un giornalista di cui si interessano tante case editrici e tanti programmi radio televisivi, come abbiamo detto in apertura. Abbiamo proprio qui sul tavolo un libro nuovissimo di tipografia, un libro di Corrado De Rosa e Laura Galesi, edito da Sperling e Kufler. Professore, di cosa si tratta? È un libro, intanto è stato scritto da uno, Corrado De Rosa è uno psichiatra dell'Università di Napoli, e si occupa, tante volte fa delle perizie nelle carceri, e quindi questa sua attività ha voluto trasportarla in un libro. Laura Galesi, che con lui ha scritto questa Mafia da legare, con la prefazione di Piero Grasso, è anche una giornalista, ma anche una scrittrice, insieme questa volta si cimentano insieme, ma ognuno di loro ha scritto tanti altri libri sull'Andrangheta, ma affronta principalmente questo libro la pazzia o la finta pazzia dei boss, quando si trovano con l'acqua alla gola, ecco perché la mafia solitamente non è che ricorre al discorso della pazzia o meno, di solito cerca di condurre una vita apparentemente, ma soltanto apparentemente, normale, e agisce dietro le quinte. Poi ecco, quando si trovano accusati di grossissimi reati per cui si chiudono le porte del carcere e non si aprono più, ecco che allora cercano qualche espediente per uscirne fuori. Lo abbiamo visto al maxi processo, l'abbiamo visto in tanti altri processi, e certo questo cercano di trovare il terreno favorevole, cercando magari delle perizie più favorevoli o dei giudizi magari che possono essere a loro più favorevoli. Ciò non toglie che la magistratura fa il suo lavoro e lo fa bene. In linea di massima, e quindi anche Corrado De Rosa ha cercato di cimentarsi in questo settore della, sì, che poi gli è più congeniale perché riguarda la pazzia di tanti. E lui dice pazzi sanguinari, matti per convenienza, finte perizie, vere malattie. Come Cosa Nostra usa, ecco, questo è ha usato la follia. E fa degli esempi, Rina, Provenzano, Santa Paola, come perché il gota della mafia ha strumentalizzato la follia per evitare il carcere e delegittimare il rivale. Inchiesta su Cosa Nostra, che scopre, cerca di sollevare il velo su alcuni professionisti, che ce ne sono tanti integerrimi, ma ce n'è qualcuno corrotto, e quindi arrivano anche in quel senso, oppure su un sistema giudiziario che presenta delle falle secondo lui. Ecco, questo lui l'ha trasportato in questo libro. Diciamo, e in questo libro mi sono ritrovato io, certo, con questo è il punto che volevamo come trattare. Protagonista di un capitolo, 21 pagine che riguardano peraltro il maxi processo, ma anche le follie di alcuni, o le presunte follie di alcuni imputati, che cercavano in tutti i modi di venire fuori dai meandri del carcere attraverso attraverso appunto questo espediente, questo escamotage. E lui parte dall'inizio del maxi processo c'è qualche imperfezione, per esempio pur sulle diarie giornaliere addirittura parla di straordinarie cose che non erano inesistenti, ma che erano, parlava di 45.000 lire all'ora, al giorno, mentre in realtà erano 40, da detrarre le tasse diventavano 28.000, quindi diventava una cosa, delle imperfezioni, oppure nella Camera della Morte di Palermo, dove sono stati trovati i peli, il bastone inciso di sangue, i peli e di peli, dove ammazzavano le persone come si possono ammazzare le galline, né più né meno, quindi le affogavano, le mettevano nell'acido e li facevano sciogliere nell'acido, e poi le ossa che rimanevano le andavano a seppellire in fondo al mare. Ecco, quelle erano delle cose raccapriccianti che noi tra l'altro abbiamo sentito al maxi processo nelle deposizioni di Vincenzo Sinagra, detto Ndilì, quando parla appunto di questa Camera della Morte, ma anche del cugino che era considerato, secondo lui, ed era considerato una persona terribile, che ammazzava facilmente e veniva, era chiamato Tempesta. Non so l'origine di questo Tempesta, i suoi legali dicevano che Tempesta perché aveva, durante una tempesta aveva salvato quattro persone, in realtà Tempesta perché era veramente un'altra tesi era quello che era veramente tempestoso nelle sue azioni, allora, criminali. Cioè, non anticipiamo nulla naturalmente del libro, lasciamo ai lettori. Ricordo che il libro edito da Spelling e Kufler di Corrado De Rosa è Laura Galesi, Mafia da legare. Lei è stato anche autore personalmente di un libro che racconta la sua esperienza al primo maxi processo, e per questo è stato invitato anche, ricordo, una trasmissione del Maurizio Costanzo Show. Ecco, sì, un paio di volte ricorda? Sono stato con il Costanzo, due volte a Roma e un'altra volta durante uno spettacolo. E a Roma ovviamente abbiamo parlato di questa esperienza, di queste delle cose più brutte che via via ci attraversavano in questi quasi due anni di giudice popolare al maxi processo. E guarda, Giacomo, che ci sono stati momenti di scoramento, e soprattutto per esempio quando è stato ammazzato, è stato ucciso in maniera barbara il figlio di una persona che aveva l'appalto del bunker per le pulizie, il piccolo Claudio Domino. Ma come si fa a ammazzare un bambino di 12 anni e ridurlo in una maschera di sangue in quel modo? Che si tratta di belve sanguinarie che non hanno visto niente. E quella mattina ricordo che quando siamo arrivati all'aula bunker, dopo aver attraversato 5 porte blindate, e ci hanno dato quella notizia, credimi, eravamo esterefatti, non potevamo pensare che si arrivasse a tanta barbarie. È stata una cosa terribile, veramente nel vero senso della parola. Ma non è stato solo questo, ma ce ne sono stati tanti e tanti episodi che hanno contrassegnato questo periodo nel bunker, e allora si viveva uno stato di tensione. Io mi ricordo che all'inizio volevano i sindaci di tutta Italia, con il sindaco di Venezia in testa, con la principale città, volevano partecipare in segno di solidarietà al maxi processo. Poi è prevalso un po' di buonsenso e hanno partecipato soltanto al consiglio comunale di Palermo. Ma c'era una tensione altissima. Io mi ricordo che gli ex operai dell'ex Lesca, 271 operai, sfilavano per le vie di Palermo inneggiando alla mafia. Vogliamo la mafia, con la mafia si vive così, no, viva Ciancimino, e così via di seguito. Erano periodi brutti, brutti come perché non si riesce a intravedere, non riuscivano a intravedere la barbarie che insita nella mafia. E il periodo, noi l'abbiamo visto per esempio, questa tensione che covava allora, anche quando per esempio la moglie del nostro collega di notte riceveva telefonate: vi ammazzeremo tutti, ritiratevi, cos'è conto. Ovviamente non abbiamo dato tanto peso a questo discorso, cioè, peraltro eravamo pure scortati dalla polizia, qualche volta ci seguivano, e credo che Santi Genovese ci ha chiesto di fare perché una pausa. Stavamo appunto guardando il nostro timer, abbiamo tutto computerizzato, come lei ben sa. Passiamo la linea a Santi. Allora. Santi. A prendermi vivo se tutti mi sbagli. Ritorniamo in studio, voglio ricordarvi un appuntamento a Cefalù nella Sala delle Capriate venerdì alle ore 16 con la conferenza Immigrazione, risorsa o problema. Interverranno il professor Marozzo della Rocca, che è un professore dell'Università di Urbino e che è anche un membro della comunità di Sant'Egidio. Ci saranno poi ospiti il dottor Affronti e don Volpe. Modererà il professor Antonio Franco, che è anche presidente del Consiglio Comunale, e il tutto è organizzato dalla professoressa Mimmazzito, che è una persona impegnatissima nel sociale e tra l'altro organizza dei corsi di lingua gratuiti per immigrati. È davvero un'attività intensa la sua a favore del prossimo. Quindi venerdì 16:30 Sala delle Capriate con la conferenza Immigrazione, risorsa o problema. Ritorniamo in studio, siamo ancora col giornalista e direttore di CRMP Radio, ma dicevamo in apertura giornalista anche per altre testate giornalistiche, si occupa, abbiamo detto, anche di sport, e non ci siamo senz'altro dimenticati che il Real Cefalù di calcio a 5 ha vinto il campionato. Grandissimo successo, ha vinto il campionato, quindi va in una serie superiore, quindi questa è stata una buona conferma che lo sport a Cefalù almeno tira, anche se no, le strutture sono alcune strutture peccano veramente di vorrebbero essere il campo sportivo deve essere restaurato, quantomeno ricoprire quella parte di che era che ormai è tutto allo scoperto, e quando piove, quando nevica, quando grandina, nessuno può frequentarlo, e quindi molta gente è scoraggiata da questo. Non per nulla il calcio 5 gioca al Palatricole ed è sempre il pienone tra virgolette per uno sport che è nuovo tutto sommato a Cefalù. Certo, per Cefalù è nuovo, è uno sport nuovo, perché noi conoscevamo il basket. Siamo arrivati alla soglia della Serie A, della Serie A2, e poi è svanito un pochettino, ecco, ha cominciato a perdere colpi. Ora si sta risollevando e quindi sta partendo dalla, e sta disputando dei buoni campionati. Per ora si trova in testa il basket Cefalù Zannella, e speriamo che concluda in crescendo questo campionato e riesca a vincerlo e quindi a salire nella serie superiore. Noi ci auguriamo che questa stessa cosa succeda per il volley, dove c'è una bella struttura, e ci dispiace che il campo di Santa Barbara sia ridotto veramente in una maniera inqualificabile. In un modo deve esserci qualche cosa che spinga i dirigenti ad avere maggiore entusiasmo, perché se uno va a giocare in quel campo dove non prende una lira e deve pagare i giocatori, dove se il piove, se il tempo è brutto non si ci può andare perché uno è quello che è, e allora diventa veramente un problema il campo di Santa Barbara. Noi questo lo giriamo agli amministratori perché facciano un intervento in questo senso per migliorarlo. Naturalmente lasciamo ulteriori approfondimenti alla trasmissione sportiva condotta da Sante Genovese, che ringraziamo sempre in quanto regista anche di questa trasmissione. Ma a proposito di sport, giovedì sera, quindi domani sera, l'editore e nonché presidente della Zannella Basket Salvatore Marsala ha convocato tutti i presidenti e gli sportivi presso un noto ristorante cefaludese per una pizza assieme, ma per discutere del futuro dello sport cefaludese. Lui ha un progetto, quello di mettere in comune le varie forze sportive cefaludese. Ognuno naturalmente mantiene la sua identità, ma si ci muove con un obiettivo comune nella ricerca di sponsor o nuovi finanziamenti, perché sappiamo che dal pubblico è difficile che possano arrivare risorse, quindi bisogna cercare sempre nuove fonti per il finanziamento delle varie attività se si vuole andare in alto. Ecco, cosa ne pensa lei, professore, in genere dello sport cefaludese in quanto società? È un tentativo di mettere insieme tante società in modo tale che attraverso questa collaborazione forse riescono a spingere meglio a stimolare meglio gli amministratori a risolvere i problemi. Io non so i termini di questo intervento, no, ancora, che ha fatto Marsala, ancora, ma so soltanto che c'è questo invito ad andare a questa riunione. Sentiremo cosa ne pensa, cosa vuol fare. Certo, è sempre un'iniziativa da valutare, e se è il caso da valutare positivamente se ci sono delle proposte di una certa consistenza che possono migliorare lo sport di Cefalù e possono dare anche il nome della città, perché noi sappiamo che questa società di volley, di calcio, di basket, ma anche portano avanti anche il nome di Cefalù. Quando vanno a giocare a Reggio Calabria, vanno a giocare a Spezzano, in altre posti, portano avanti sempre il nome di Cefalù. Sì, voglio raccontare un piccolo aneddoto che è capitato di ascoltare proprio durante la partita del Barcellona, che, come lei ha detto, attira tantissime persone. C'erano anche i giornalisti di Verona la scorsa settimana. Sì. E uno di loro raccontava all'altro: sai, mi hanno chiamato da Verona e mi hanno detto vai in una piazza, non facciamo il nome, dove all'angolo, non facciamo sempre il nome, c'è un bar che fanno i cannoli buonissimi, e io ne ho comprato 24, così poi in aereo li mangiamo anche con la squadra. Quindi il nome della città dove la squadra gioca circola, e come se circola. Circola, certo, in questo parte si parla di cose enogastronomiche, anche di cose che ovviamente venendo a Cefalù gustano queste cose, vanno nel ristorante, vanno nelle cose, ed è sempre un veicolo. Quindi se avessimo, oltretutto la squadra ha dormito qua, come il Verona ha dormito a Cefalù. C'è gente che ti dice ma Cefalù non ha bisogno di pubblicità, ma non hanno capito niente, guarda. Giacomo, non hanno capito niente, non hanno, questa gente che parla, io parlo in generale per ora, ma questa gente non gli farei amministrare neanche un pollaio, perché non hanno capito niente. Oggi c'è una a livello internazionale, ma nel Mediterraneo c'è una concorrenza spietata, e gli albergatori sono costretti a scendere i prezzi, a fare dei pacchetti accettabili che possano meglio far convergere la gente su Cefalù. Quindi la pubblicità, la propaganda è l'anima del commercio, e lo sport è sicuramente il turismo. Se non si è capito questo, non si è capito niente, e vuol dire che non si è allo stato brado, e questo è veramente il turismo sportivo, fetta molto importante, perché avendo le strutture ci possono essere i campus, ci possono essere gli stage, ci sono le squadre. Il Verona per esempio la scorsa settimana ha dormito a Cefalù con circa 30 persone, perché erano forse più di 30, perché c'erano 15 giocatori, c'erano una decina di dirigenti, c'erano 6 giornalisti, c'erano tifosi, e non molti ma c'erano, quindi diciamo sono risvolti economici importanti, e pubblicità che vanno a fare poi agli amici se Cefalù, perché senz'altro Cefalù è bella, come nessuno può dire nulla, quindi bisogna soltanto farla conoscere meglio. È una delle città più belle del mondo, e se vuoi una conferma, una volta c'è stata un'intervista di Trigano fatta in un giornale che io credo di avere conservato ancora a casa, e gli chiedevano: lei che possiede circa 170 villaggi in tutto il mondo, quindi nei luoghi più belli del mondo, diciamo che il presidente del club Med, il club Mediterraneo occupava i posti più belli del mondo, ma ci può dire secondo lei qual è tra questi 170 o nel mondo intero qual è la città più bella che a suo avviso? Ma lui rifletta un poco dopo aver parlato di villaggio invernale di Vittelle, però lì si scivola, si fa, non siamo, ma il giornalista dice: ma lei ci sarà pure una località più bella tra le sue, tra quelle che... Sì, dice, c'è in realtà. Vuole una prova? Sediamoci tutte e due su una sedia a sdraia accanto alla chiesa di Santa Lucia e guardiamo avanti vedendo Cefalù. Ecco, allora lei avrà il valore dell'assoluto. Guarda, questa mi è rimasta talmente impressa, ho voluto conservare questo articolo di questo di Triganò, che se ne intendeva, era il presidente del club Mediterraneo, quindi avevano 170 villaggi tra i migliori del mondo, quindi sul piano della bellezza non ha uguale. Non ha uguale. E ricordiamo è singolare, che anche... ed è eccezionale. Sì, e ricordiamo che anche se il Club Med stenta a ripartire, i lavori sono praticamente mai iniziati dalla posa, anzi dall'annuncio del nuovo progetto, però in ogni caso il nuovo presidente Giscard d'Estaing dice sempre che Cefalù sarà il Club Med più bello del mondo, perché proprio come diceva lei, Cefalù lo merita. Vogliono farlo a Cinque Tridenti, quindi Cinque Tridenti loro ne avranno due in tutto il mondo, Cefalù è un'altra località che non so, non ricordo. Sicuramente, ma tutto dipende anche dalla politica nazionale, perché attrarre capitali stranieri è strettamente legato alla politica nazionale. Ecco, si sono appena concluse le elezioni con un nulla di fatto. Abbiamo parlato di sport, un pareggio che non serve a nessuno, si dice nello sport, o no? No. Sul piano, certo, diventa difficile, complicato gestire il paese, perché da un lato se la Camera c'è una maggioranza che è scattata per Bersani, e dall'altro lato al Senato questa maggioranza non c'è, quindi ci sarà bisogno di unire alcune forze politiche per cercare accordi. Io credo che loro sono sulla strada per cercare degli accordi. Ho sentito l'altro giorno tra Bersani e Grillo, Bersani il modello Sicilia si parla. Ha lanciato delle avanze per Grillo, non lo so se Grillo è affidabile o meno, io non lo so. Sul piano della protesta certamente ha avuto un successo enorme, e ognuno lo guarda con simpatia. Sul piano della proposta non lo so, perché sul piano della proposta io ancora non ho visto niente di Grillo. Quindi vedremo in futuro se quelle premesse che lui dice di attivare li porterà in porto, se farà un programma come si deve per cercare di risolvere alcuni problemi dell'Italia. Ma come dicevi tu, la situazione non è in questo momento non è bella. Sicuramente, perché io ho preferito fare la rassegna stampa estera piuttosto che quella italiana, perché per vedere un po' come ci vedono da fuori, e il quadro non è per nulla incoraggiante. Basta leggere ad esempio il The Wall Street Journal, che è il giornale economico di Wall Street, appunto come dice il titolo. A loro non interessa, diciamo, tutto sommato, parlo anche in generale di tutti i giornali esteri, non interessa tutto sommato chi c'è, ma gli interessa un governo stabile con garanzie di governabilità che sono fondamentali. La reazione della borsa come è stata? Reazione assolutamente negativa, perché ha visto che c'è una instabilità politica, e quindi su questo hanno cercato di innestare un discorso economico che certamente ci danneggia. Lo spread è volato, per quello che può valere, a 350. Sì, lo spread, questo sconosciuto potrebbe... ora è diventato il protagonista della vita italiana. Uno si alza la mattina, lo spread come è combinato? Dice, ma io ricordo un episodio vecchissimo, ormai risale ai tempi delle scuole superiori, quando c'era la Coppa America e l'Italia protestò perché la barca avversaria aveva il tangone, un albero orizzontale della nave non omologato secondo loro. E allora in tutti i telegiornali si parlava di questo tangone, e ci fu l'episodio della massaia che al supermercato ha detto, rivolgendosi alla squadra, alla barca a vela avversaria, con brutte parole, diciamo così, tra virgolette, se non levano subito quel tangone protestiamo. Cioè, adesso si parla di spread, certo. Spuntano parole nuove che entrano nel vocabolario comune, però lo sappiamo, a parte lo scherzo, che lo spread i punti di spread sono milioni di euro di interesse, purtroppo. Allora, lei vede qualche prospettiva futura, o il ritorno alle urne la cosa... No, il ritorno alle urne mi pare un po' prematuro. Ovviamente il presidente, anche se è un presidente uscente, dovrà fare deve cercare tutte le ipotesi per cercare di uscire da questa impasse. principalmente deve dare diciamo l'incarico di formare il nuovo governo a chi secondo lui può avere la possibilità di avere la fiducia in Parlamento, perché senza la fiducia in Parlamento non serve a niente. Quindi devono per forza di cose cercare uno, due, tre persone, dovrà fare dei tentativi per a casa. Penso che non ci vuole andare nessuno, come non ci vuole andare nessuno a Cefalù, dal consiglio comunale, dell'amministrazione. Così a livello nazionale non ci vuole andare nessuno. Una volta eletti, la poltrona è bella, piace, è comoda. E in questo caso la par condicio forse c'è per tutti. E c'è la par condicio, sia sì, a livello nazionale sia a livello... Però, però tra gli eletti consentiteci di fare i complimenti a due che sono direttamente legate al nostro territorio. La riconfermata senatore Simona Vicari e il neo onorevole Magda Culotta. Sì, sì. Oltretutto siamo veramente in par condicio, una del PDL, il senatore Vicari, e Magda Culotta è del PD. Ma, due giovanissime... Ripetiamo, anche di altri partiti, che ci siano possibilità, perché più gente c'è del luogo, più c'è la possibilità di intanto di avere finanziamenti, di avere agevolazioni, di avere possibilità, cioè non ci lasciano, teoricamente non ci dovrebbero lasciare in uno stato di abbandono, per cui c'è sempre la possibilità. Quindi noi, io mi unisco ai tuoi auguri per fare gli auguri sia alla senatrice Simona Vicari sia al nuovo deputato Magda Culotta, che ha avuto questa cosa di andare in Parlamento e quindi e poi forse si ritorna questa volta non più alla città delle donne, ma al Parlamento delle donne. Sono due donne, tutte e due molto giovani, anche se la senatrice Vicari ha un'esperienza politica lunghissima, ma anagraficamente molto giovane, appena quarantenne o qualcosa da lì. Sì, scusi se diciamo l'età. La prima volta che sono andato al Costanzo Show, la seconda volta che sono andato al Costanzo Show, c'era Simona Vicari. E lei era la più giovane assessore d'Italia e per questo era stata invitata, e Costanzo mi ha invitato a parlare su Palermo, su alcune cose che riguardavano anche Simona Vicari, quindi ha una lunghissima militanza sul sicuramente campo, anche Magda Culotta è un giovanissimo sindaco, tra i più giovani sindaci anche lei d'Italia, ma che sembra dotata di grande entusiasmo e pare quindi, proprio che sarà la più giovane parlamentare italiana da quello che si leggeva, perché ultimamente avevano individuato come più giovane un parlamentare della lista di 5 Stelle di 29 anni, e credo che Magda ne abbia 28-27 addirittura, quindi avrà anche questo primato. E dal citofono interno ci comunicano che c'è l'ultimo stacco pubblicitario e poi ritorniamo per i saluti. Va bene. Il nostro lavoro è di offrire un caffè di buona qualità, di offrire un tramezzino, un menù pranzo gustoso e fresco ad un prezzo conveniente. Sappiamo farlo bene, ci dà continue soddisfazioni e ci permette di programmare l'acquisto della nostra futura casa e di fare altri importanti investimenti per la nostra vita. Il Franchising Studio Bar è lavoro creativo, è lavoro gioioso. Entra a far parte della catena Drink and Food Studio Bar in Franchising e sarai uno gioioso come noi. Per informazioni consulta il sito www.studiobar.eu o chiama il 335-1500-293. Questo spot lo dedichiamo a chi ama il bello e lo sceglie ora che conviene di più. Brass da valore allo sconto, tutto dal 30 al 50%. Idee regalo, oggettistica, complementi d'arredo e tantissime sciarpe e cappelli. E mentre qualcuno potrebbe definirli sconti folli, noi diciamo che sono sconti geniali per chi ama lo stile e gli affari. Brass è in corso Ruggero 117 a Cefalù. Un gioiello dura per sempre, ma i tempi cambiano e con essi i gusti e le mode. Mineo Gioielli ti propone la permuta dei tuoi gioielli in oro vecchio con gioielli nuovi. Mineo Gioielli acquista il tuo oro e argento vecchio a prezzo di mercato e ti offre la scelta in un vastissimo assortimento di gioielleria in oro e argento, marche di prestigio e raffinata produzione artigianale. Mineo Gioielli, a Bagheria, via Flavio Gioia 3, telefono 091 96 23 13. Fai un affare, cogli l'occasione. Rinnova i tuoi vecchi gioielli con le novità del momento. Ogni tanto cambiare fa bene. Per la tua pubblicità, CRM 0921 42 3456. E siamo di nuovo in studio, ma solo per i saluti. Abbiamo parlato col direttore di CRM, il giornalista Mario Lombardo, di editoria, di sport e di politica. Abbiamo fatto una chiacchierata, spero piacevole per i nostri radioascoltatori. Professore, a lei, direttore, anzi, a lei i saluti. Sì, a me non resta intanto per ringraziare te per l'invito che mi hai fatto di partecipare a questa trasmissione Note. E poi volevo salutare i nostri connazionali che si trovano all'estero e che magari ce ne saranno collegati sul computer al nostro sito, e salutare i nostri radioascoltatori che ci seguono ora, ringraziare anche Santi Genovese che ci assiste in regia, e che dire più? Speriamo che Dio ce la mandi buona, questo vogliamo. Ci uniamo ai suoi saluti, e un saluto anche da parte mia a Santo Genovese che è stato in regia, e un saluto a tutti i radioascoltatori. A risentirci alle prossime puntate. Avete ascoltato Note, a cura di Giacomo Sapienza.